Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non ho capito, uno chiama, dice tu David offendi i morti, offendi quelli che c'hanno il tumore, sei qua là, e David non gli può dire che è una testa di merda? David, lotta, lotta, non mollare, il popolo italiano è con te. Vabbè, adesso non esageriamo. Molto eh? Bene, molto bene, molto bene. Davide, sei troppo il numero uno. Ti ha chiamato un tipo, gli hai detto che era testa piena di merda, ti ha risposto che era testa piena di merda, ce l'avrei avuta tu, e gli hai detto, beh, però vediamo di non dire parolacce, sei proprio volgare, incredibile, un dribbling che neanche Cristiano Ronaldo avrebbe fatto. Bomber. Vabbè, dai ragazzi, non esageriamo, qui si è ribaltato il mondo. Non mi ricordavo. Tutti lo insultano, tutti lo insultano, ma io veramente, Parenzo, ti amo Parenzo. Ragazzi, ma che succede la qua? La parte sana del paese. La rivoluzione. Ce la possiamo fare, la parte sana del paese, la parte sana che emerge. Fino ad oggi vedevi soltanto il marcio, oggi finalmente senti la parte, perché sotto la muffa c'è la parte sana. Tu fai vedere solo la muffa del formaggio, ma tolta la muffa, c'è la parte sana del paese. Chiudiamo qui 18:37. Spazio a Barisoni, grazie. Parenzo, la maggioranza silenziosa è con te. Pure. Ragazzi, ma qui si è veramente ribaltato il mondo, eh. Io non controllo nemmeno più i messaggi WhatsApp che arrivano ai soliti numeri che rimandiamo, please. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ragazzi, però io non ce la faccio più. Da Reggio Emilia arrivano notizie incredibili. Incredibili. Adesso sicuramente Parenzo avrà da ridire anche su questa cosa qui. Vediamo. Leggo, dipende. Su giornali locali. Informatissimi giornali locali. Il caso, quando, sai quando i giornali mettono il caso, no? Sì, certo, il fatto, il caso, 9 volte su 10 è una bufala, una puttanata, non c'è nessun caso. Spesso non c'è nessun caso. Il caso. La protesta dei profughi in questura. Aridaie. La pasta è scotta, ecco. E il cibo poco vario. Sì. Il questore ha ricevuto una delegazione di migranti. A parte il fatto che già l'esistenza di una delegazione di migranti, civile, i quali non liberamente mettono... da non so dove vanno in 40 davanti alla questura, entra una delegazione di migranti, ma perché anziché star fuori a protestare, già sono sindacalizzati, hanno un interlocutore, il questore ovviamente, e siccome pazzesca. Hanno un interlocutore, invece di star fuori lì a protestare, urlare, blu, blu, blu, blu, blu, bussano, dicono scusate, permesso, vogliamo dire una cosina, la pasta è scotta. Ecco, allora, ora aspetta, pare... aspetta, aspetta. Il loro problema, secondo quello che riferiscono fonti informatissime, era relativo soprattutto all'eccessiva cottura del cibo. Ecco. E in parte alla poca varietà del cibo. Beh. Cioè, questi signori arrivati in Italia. A questi signori viene messa a disposizione. Perché uno che arriva in Italia, aspetta, deve mangiare la pasta scotta, non ho capito. Ma che regole a questi signori viene messa a disposizione vitto e alloggio. E fin qui uno. C'è chi discute anche su questo. Io per esempio non discuto su questo. Va benissimo, viene messo a disposizione. No, io discuto perché alla radice è il problema. Però lasciamo perdere adesso. A questi signori viene dato vitto e alloggio. Dopodiché vanno a protestare dal questore in delegazione. Una delegazione organizzata di migranti che non sono dunque in condizioni terribili, no? quando tu vai a fare una delegazione non sei in condizioni fisiche penose. Civilmente, vanno lì civilmente. Ci mancherebbe pure che non andassero civilmente. No, come devono andare con i bastoni in mano? Civilmente, non lo so, tranquillamente, hanno chiesto udienza. Non lo so. Hanno chiesto udienza al questore, il questore ha ricevuto e ha detto: scusi, signor questore, per cortesia. Il cibo è scotto. La pasta è scotta. No, va girata. Ci vuole tanto a cuocere le pennette anziché 24 minuti, 10, come c'è scritto sulla confezione. Ragazzi, non ce la posso fare. Non mi pare una cosa così scandalosa. Adesso chiameranno. No. Alessio da Padova, Francesco da Bobò, Antonio da Racalmuto, non anticipare. L'altro da Bergamo che dirà: ecco, hai visto? Questo la è pasta. Mauro. Vabbè, insomma, parlano tutti uguali. Allora, hanno parlato di cottura del riso, del tipo di piatto utilizzato, di pasta utilizzato. Mamma. Questo è un operatore là che parla, eh. Hanno parlato di cottura del riso, del tipo di pasta utilizzata, dei condimenti. E della digestione difficile. Ma non ho capito, ma ci vuole tanto fare una pasta che non sia scotta? Anche quando vai all'ospedale chiedi, scusi, è scotta, me la puoi fare, fa schifo. Io penso che tu non credi a quello che dici. Io davvero penso che tu non credi a quello che dici. Io penso che si creano dei casi sul nulla e che non ci vuole nulla a cuocere la pasta 8 minuti anziché 22. Questo ci vuole nulla, quello legge nella confezione c'è scritto cottura della pasta o se 8 te, fanno minuti. Male, fanno male la cottura della pasta. Ma non lo so chi stai lo fa, attaccando ma gli operatori. Ma non lo so. Gli operatori che sono al servizio di questi signori, no, al servizio capito, di questi signori, i quali secondo te scandalo si sono lamentati per la pasta. Beh, sì. Scandalo. Si fossero lamentati perché prendono le botte è una cosa, ma per la pasta no. Scandali sul nulla. No, tu ma che sul nulla? È al contrario, per altre cose, è al contrario, è al contrario. Comunque come sapete, a Roma si è ritirato Bertolaso. Forza Italia. Forza Italia, quello che resta di Forza Italia, diciamola tutta. Converge su Marchini. Allora, cari ragazzi, qui veramente siamo alla follia. Siamo alla follia. Io vi faccio ascoltare alcune cose che per carità di patria non dovrei farvi ascoltare. Perché dopo quello che vi avrò fatto ascoltare adesso, tra pochi istanti, c'è una persona in grado di votare questi signori? Dico una persona al mondo. Io per esempio fossi a Roma non voterei mai per il CEV, ma mai dopo quello che hanno combinato, mai, ma nella maniera più assoluta. Allora partiamo da una cosa. Berlusconi su Bertolaso, ma fino a pochi giorni fa comunque facevo una piccola carrellata di Berlusconi su Bertolaso, il migliore di tutti, gli altri. Questo qua è bellissimo, senti. Non solo Bertolaso è candidato, ma è l'unico candidato che può diventare un sindaco capace di togliere Roma dal degrado. Tutti gli altri candidati in campo di cui si è sentito parlare, al suo cospetto, al suo confronto, fanno ridere. Fanno ridere, ritirato, l'ha fatto ritirare. Senti, vincerà al primo turno, senti questa. Bertolaso avrete modo, tutti voi romani, di conoscerlo e io sono sicuro che vincerà al primo turno. Perché? Perché io penso che i romani abbiano buon senso. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Su, di che parliamo? È la politica, per carità, è la politica, però. Appunto, ma esatto, è clamoroso, sì, però. Senti il tuo amico Brunetta, dai. Bertolaso è un leader vincente e su Roma non si torna indietro. Disponibili al secondo turno a ricevere il voto della Meloni per Bertolaso sindaco. Fatto fuori Bertolaso. Subito fatto fuori. Senti invece Brunetta che dice oggi, questo era il 17 marzo. Oggi Brunetta, appena il capo ha deciso di far fuori Bertolaso, senti qua. E Marchini vince, perché Marchini è l'unica figura non divisiva all'interno. Ah, ragazzi, ma non se ne può più, non se ne può più! È la politica. Ho capito, è la politica, d'accordo, ma è così clamoroso, io così clamoroso non l'avevo mai vista. Poi così clamoroso, avessero detto votate Giacchetti, ma insomma alla fine capito, comunque ragazzi, è una cosa. Ma quello dice Bertolaso vince nel... al primo turno, Bertolaso gli altri fanno ridere. Ma che dovevano dire all'inizio? Bertolaso perde, no, l'hanno candidato, d'accordo, l'hanno infatti, a sostenere. Va bene. No, ma ne ho anche per Marchini però. anche per Marchini, io l'apprezzo Marchini. Anche no, tra l'altro c'è una cosa gravissima a Roma che spero tu voglia sottolineare. Che è successo? Ad Ostia, sai che c'era l'Ostia, sai ad Ostia cosa c'è, no? Ma che cosa cazzo c'è a Ostia? Non lo so. Sì, vabbè, la mafia, la cosa, eccetera, le inchieste, eccetera. Vabbè, allora. Ho parlato della pasta scotta fino a 2 minuti fa! Ora uno gli parla di mafia! Sì, va bene, dimmi che c'è. La mafia è normale, traffico. Non sto dicendo che è normale, che è successo? Ancona, un altro figlio di puttana. Ragazzi, ad Ostia hanno dato quasi fuoco. Peso chi? Il comitato elettorale di un giovane candidato, un ragazzo. Vabbè, che ma chi se ne frega? Archiviamo Zanola, ma chi se ne frega? Cosa? Di Giovanni Zanola, me ne fotto. Marchini. Cosa fermo, Marchini. Te ne fotti che gli hanno distrutto il comitato elettorale ad Ostia? Oddio mio. A Zanola? Sarà un amico e tuo. Parli della sarà pasta scotta? Sarà un amico tuo. Beh, anche allora, ecco appunto, un amico tuo. Marchini. Fino a poco. Ma stai zitto un attimo. Fino a poco tempo fa, Marchini. Brutto. Fino a poco tempo fa. Diceva brutto. Che era contro questi partiti. Brutto, adesso è il candidato di Forza Italia. Senti. Liberi dai partiti. Allora, come lei sa, io sono contro questi partiti che di destra e di sinistra hanno oggettivamente fallito la loro chance, sia da una parte sia dall'altra. Ragazzi, voi capite, no? Per carità, Marchini è da comprendere. È evidente che se ha una possibilità di diventare sindaco remotissima, secondo me, è perché Forza Italia lo appoggia. Ma fino a poco tempo fa diceva che i partiti erano da cancellare, finiti, morti. Adesso è candidato di Forza Italia. E dai, su. E dai! Direbbe Mughini, dai. Lorenzo, mi raccomando, chiama prima di arrivare a casa. Chiama. Traffico. La Zanzara. Dall'Italia, andiamo a Roseto degli Abruzzi, amico mio, dove un consigliere comunale, ex consigliere regionale, un tale che si chiama Norante, attacca così una sua collega del partito. Norante, bravo questa cosa qua. Come si chiama? Norante. Da no, te, sarà già. Ignorante, hai sbagliato a allora, leggere. Perché lo dici? Perché sentite come tratta una sua collega, un consigliere comunale del partito. Democratico lui è di Forza Italia. Via. Chiare Ginobbio, ma perché non vai a fare le faccende a casa invece di stare qua a parlare di ste cose, no? Ma perché, no? Ma perché non vai a fare i piatti, a fare cucinare, a fare cose? Perché devi stare qua cerchiamo a tirare dalla mattina alla sera? Scene dalla provincia italiana. Antonio Norante dice perché non te ne vai a casa a fare i piatti. Poi si sgarbizza a un certo punto, attacca un altro collega, non so per quale cazzo di motivi, là a Roseto degli Abruzzi, non me ne fotte nulla, e gli dice asino. Stupendo. Voglio parlare degli ingari. Asino! Voglio parlare degli ingari. Questo asino. Ancora flash dalla provincia italiana, caro David. Ti vedo basito di fronte a questo signore, di fronte a questo, fare, a questo onorante. Non siamo riusciti, neanche di che partito fosse, ma mi interessa poco. Siamo riusciti, credo, siamo riusciti, credo, a far cancellare la candidatura a sindaco del signor Polegato. Questa è una notizia buona. Vedi, ogni tanto io non sono contento. Beh, in realtà non sono contento. Meno, ottimo. No, ma avanti, non c'entra niente, prossimo. Ma non capisco perché non si possa candidare adesso, no, Polegato. Lo vogliono accusare di qualsiasi cosa. Mi dipende alle istituzioni. Ha detto delle cose infami. Quella su Vendola, dici? Quella su Vendola. Tutto in generale si è proclamato fascista. Risentiamo, vabbè, ha invocato l'arrivo del Duce, vuole impalare Vendola. Che deve fare un amico mio di più? Per non essere candidato. Ma che, dimmelo tu una cosa che non gli si chiede di finire in galera per 40 anni. Ma almeno di non che deve fare uno? Dimmelo tu, devi stuprare delle capre al Giambellino. Ma che deve fare? Ma dimmelo tu una cosa. No, ma non è grave, chi se ne frega, Stefano da Macerata. Ma come non è grave? Ma è gravissimo. Gli chiediamo di non candidarsi, non di rimanere chiuso in galera per 27 anni, carcere duro 41 bis. Che ne pensi degli omosessuali? Allora, gli omosessuali maggiorenni mi va bene, a me non mi piace il discorso che adottino dei figli. Per me dire, avendola, ti dico, io gli farei una castrazione chimica e lo impalerei, punto. Impalerei, è difficile trovare il palo grande. Ma io spero che lo querelino, ma veramente buttino via la chiave. Ma che mi querelino, guarda. Ma come si permette? Lo impalino. Ascoltami una cosa, uno che adotta i bambini, per me va castrato chimicamente, capisci? È impalato, è un matto. È impalato pure, dici. È impalato anche. Poi ha detto delle cose su Mattarella, su Napolitano, che abbiamo già fatto ascoltare online, è diventato una specie di cult assoluto. Però la cosa incredibile è che va a Telepordenone, no? Sì. Dall'amico Di Meo, e come al solito se la piglia con noi, cioè dice delle cose e poi se la piglia con noi. Ma che Di Meo? Senti, che Di Meo, Polegato. Come sta Di Meo? Ma che cazzo me ne frega adesso? Chiedi sempre delle cose assurde, ma che me ne frega adesso? Sono già nel trasporto del racconto e mi dici come sta quello, ma che me ne frega a me? Sì, no, infatti a nessuno interessa di Di Meo, giusto? Ho fatto niente io, cosa vuoi? No, io, la grossa nel senso, ci sei allora, caduto? Loro hanno provocato, e io ho provocato io loro, sono loro caduti dentro la levata, io ho provocato loro, gli ho detto che castrerei tutti. Vendola, che ne so io di Vendola? Vendola, sono contrario ai bambini, perché io per i bambini metterei una difesa, chi tocca i bambini muore, attenzione. Ancora Polegato. Attenzione. Sai che lì sono i vilipendi a capo. Ma va bene, per me che sono qua. Scalfaro è stata una medaglia d'oro. Ma sì, ma per Scalfaro un delinquente. No, ma lascia perdere. Penso che merda di Scalfaro. È stato uno dei peggi. Come lui e Napolitano, se sono tutti e due peggi, guarda, tutti e due pezzettoni di merda. Aridaglia su Napolitano. Senti. Sempre camicia nera, io sono fascista e basta. Il punto è questo. Questa gente qui dice sempre le solite robe, e se noi li votiamo quei simboli che si sono schierati loro, rafforziamo Roma. Bene, allora e bisogna mandarli via, massoni, mafiosi e marionette. Bene. Se ne devono andare, fuori le palle. Bene. Poi dice che ha reagito Di Meo. Okay. L'ottimo Di Meo. Senti, hanno detto che la lista è come il circo. Senti. Beh, sì, questo. Io non ci sono caduto, attenzione. Io l'altra volta che mi avevano chiamato la zanzara sono stato tutto tranquillo tutto quanto. Poi quando hanno toccato Lana Ciriani, che io ho candidato nella mia lista, e mi hanno detto che io ho una lista da circo, che mi manca solo la donna baffuta e il nano che salta sul cerchio del fuoco, allora lì gli ho detto subito, perché a me mi possono dire quello che vogliono, non me ne frega una minchia. Ma come vai a offendere la gente che non c'è? E lì mi sono incazzato. Intanto è il nano che salta nel cerchio di fuoco, non sul cerchio di fuoco. L'hai citato Di Meo, sentiamo quello che l'ha intervistato come giudica Polegato. Senti. Detto questo, per me Polegato deve rimanere lista. Cioè, quello che dice deve essere giudicato dagli elettori. Continuare, certo, assolutamente. Sindaco non mi interessa. Sindaco di Pordenone, si candida a sindaco di Pordenone e deve rimanere candidato sindaco di Pordenone. Saranno i cittadini, poi può prendere tutte le querele che vuole, non mi interessa, io non lo querelerei mai perché non querelo nessuno tranne chi mi dà del pedofilo. Però, resti in lista e venga giudicato dagli elettori. E basta, punto. Cosa ha fatto sto povero Cristo? Voi è un povero Cristo. La Zanzara, questo programma radiofonico, lo ha richiamato, ma questa volta gli hanno tirato il fiocchetto. E lui ci è caduto dentro con tutti e due i piedi. Perché loro lo istigavano e lui, invece di rimanere zitto, andava giù con la mannaia. e questo dimostra che non è un politico professionista. Sì, ma non è quello il punto, amico mio. Ma... ti assicuro che questo noi in questo... sì, in questo caso bravo, noi non abbiamo me, fatto. Sì, ma non abbiamo fatto una mazza. Cioè, nel senso che non c'è stato manco bisogno di stigarlo. Cioè, bastava un ma po', c'è... no? Criticarlo, e quello è partito per la tangente, ma è quello che pensa. Cioè, voi non vi rendete conto che le persone ogni tanto dicono quello che pensano, tirano fuori quello che pensano. Non c'è niente da fare. Questo qua pensa che Vendola vada impalato. Cioè, nella sua mente, nel recondito della sua mente, c'è l'idea di Vendola ucciso con un palo nel culo. Così è, nella sua mente è questa la roba, capito? Anche a me non piace politicamente Vendola, ma che cazzo me ne frega, è una cosa diversa. Non direi mai che debba essere impalato. Lui nel recondito della sua mente c'è quello e l'ha detto, non è che l'abbiamo istigato noi. Certo, un po' di qualche piccolo mestiere ce l'abbiamo, però piccolo contributo abbiamo dato, come dire, no? Allo svelamento di quello che c'è nella mente delle persone. A dopo. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. La Zanzara. Mamma, saluta Cruciani e Parenzo. Che cazzo sono? I conduttori della Zanzara, ma quelli che ascolto sempre. Ah, quelli che mi ci fanno un per cazzo. Sì, loro. Parenzo è l'ultimo baluardo di razionalità. Qui il mondo è impazzito, eh? Il mondo è completamente impazzito. Si sta svegliando, l'Italia si sta svegliando, l'Italia si sta svegliando, stiamo togliendo quella muffa che infesta questa radio per farvi dire fuori la parte sana, bella del paese. Telefonate, chiamate, portate testimonianze di cooperative sociali, di lavoro che fate, di assistenza. Questa è l'Italia, il paese migliore. Ancora notizia da Napoli. C'è un signore che si chiama Del Genio su non so quale radio, credo Kiss Kiss Napoli. Senti la sua battaglia con un ascoltatore. Il piagnisteo napoletano continua. Ci sono o non ci sono i favori arbitrali a favore della Juve? Per me ci sono a favore di tutti quanti. Non ci sono più favori arbitrali a favore della Juve? Io ho una domanda. Tu non hai visto anche quest'anno, come tutti gli anni, che la Juve ha ricevuto favori arbitrali scandalosi in alcuni casi? No, dici no. Allora, che per me non è, perché se tu la pensi così devi ritirare la squadra dal campionato. No, perché devi combattere affinché succeda sempre meno. Devi combattere denunciandolo, come faccio tutti i giorni. Ma non si può stare a sentire queste cose, perché non e non mi sai dire, Giovanni, tu la radio, mica ti sono venuto a casa tua e ho messo Kiss Kiss Napoli, l'hai scelto tu di sentirla. Se non ti piace non la sentire. Io ho tante migliaia di persone che gli piace sentire queste cose, mi devo preoccupare di te che non ti piace. Non mi sentire. Non ti posso sentire a te. E non mi sentire, Giovanni, hai fatto tu la scelta. Sei tu che sei napoletano e hai fatto la scelta di essere juventino. Non ci sentire. Sono 12 punti indietro, avete perso. Ma non me ne frega niente, pure 40 dietro. Ma pure 40 dietro, ma pure quelli del Carpi devono fare le trasmissioni così. E poi la battaglia continua, sentite. Ma vi dovete vergognare quando con questo accento parlate di voi napoletani. Tu sei l'accento napoletano e tifi per una squadra che ruba, ti devi vergognare. Hai l'accento napoletano e tifi per una squadra che ruba. Ma non dire stupidaggini. Ma se hai il coraggio, vieni qua che ti denuncio per quello che hai detto. Lasciami il nome. Se tu dici che io ho preso mai un euro da De Laurentiis, lo devi dimostrare. Lascia il tuo numero che ti denuncio. Ma ragazzi, ma c'avete tutti la mania della denuncia? Ieri Parenzo con due o tre ascoltatori diceva ti denuncio. Solo procederò, due. Ma che procederai? Ma lascia perdere, dai. Lascia perdere. Devono imparare il peso delle parole. Questo si chiama show radiofonico. Devono imparare il peso delle parole, calibrarlo. Non c'entra, Bruno da Napoli, non c'entra nulla. Dai. Niente, c'entra per le cose gravi si va in tribunale. Quando uno scherzando? Ti dà del pedofilo, si va in tribunale. Uno mi minaccia, fa, ma stiamo scherzando. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando. Bruno comunque, da deciderà Napoli, la magistratura. Ma non c'è quale problema. Magistratura? Ma smetti di intasare i tribunali. Non intaso i tribunali, ma intasare i tribunali con le tue cazzate. La gente deve cominciare a pesare quel che dice. Bruno, Napoli. Ma Bruno, ancora non interessa niente di Bruno. Dimmi Bruno. Ciao Cruciani, ci sei? Beh, amico mio, sto qua, dai, forza. Ma ti ascolti sempre a Lucarelli? Dai, oh, Bruno! E smetti, è imbecille, dai! Invece di dire che basta, togliete questo coglione, dai. Imbecile. Carlo da Bari. Buonasera, Cruciani. Dai, dimmi, Carlo, dimmi. Senti, io ti riconosco una discreta intelligenza e mi meraviglio che tu ti accompagni a un personaggetto come Parenzo. Sì, no, anch'io questo sì. Personaggetto. Sì. Questo meriterebbe per zittirlo due scorreggi in bocca da parte di Scalfarotto. Solo questo. No, questo è interessante. La cosa interessante in particolare è la persona che dovrebbe fare questo. Scusa, Carlo, è una persona qualunque. Aspetta un attimo. Arriviamoci, Carlo. Sì. Cioè, Parenzo si meriterebbe che cosa? Sì. Si meriterebbe due scorreggi in bocca da Scalfarotto. E perché proprio da Scalfarotto? Perché è un suo amico. So che è un suo amico. Ma no, un suo amico, lo conosco anch'io. Senti, a proposito, Carlo, siccome ti vogliamo ascoltare bene in questa tua prolusione, in questo tuo speech, si dice, vorresti togliere il viva voce, vorresti togliere l'auricolare? Perché chissà dove ha messo il telefono. Avendo, siccome lui usa mettersi il telefono, capito? Dove? Quindi per quello fa sedere, no, non lo so io dove. Ma lui ha questa usanza per parlare, siccome ha la bocca molto vicina, capito? Allora capito, per questo è l'effetto sonoro della sua parlata. Ecco, questo va bene, Carlo, allora? Prego, Carlo, avanti. È un personaggetto, Parenzo. Senti l'eco come fa? Perché se la mia, capito? Una faccenza sempre. Vabbè, sì, Carlo, però di cosa vuoi telefonare? Devi usare un altro metodo per parlare, capito? Non devi mettere il telefono, capito? Carlo, sì. Cosa volevi dire però? Al di là della questione di Parenzo, no, personaggetto degli immigrati, che tu all'inizio della trasmissione hai parlato che rifiutano il cibo perché... No, non rifiutano, hanno protestato perché secondo loro la pasta, il riso era scotto ed era poco, diciamo, condito. Ma ti sembra una cosa ammissibile questa? No, secondo me è inammissibile. No, secondo me è inammissibile. Può succedere solo in Italia. Solo in Italia che esistono le delegazioni di immigrati che vanno dal questore o da non so chi. E che esista una delegazione, lo trovo già assurdo. Cioè, uno dovrebbe essere immigrato, esistono i singoli, non le delegazioni. La delegazione erano di 40 insieme, persone. Sono andati ma poi, se sono disgraziati, disperati, cosa vanno a protestare? Cioè, non è che gli diamo la merda da mangiare, ragazzi, gli danno il riso, quello che si mangia nelle mense aziendali. Folli. Mi ha scritto una persona, giustamente. Aspetta, fermo. Mi ha scritto una persona che dice: io mangio da una vita nelle mense aziendali. Certamente il riso, a parte che qui, per esempio, nella mensa aziendale è buonissimo. La mensa è cotto benissimo. Ore dove io ho mangiato più volte. Il riso com'è? Non c'è il riso scotto, è buonissimo. Ma allora, sarà buonissimo anche quello. Sarà buonissimo anche quello. Ho mangiato in tante mense aziendali, vabbè, anche in quella media set in passato. Che vuoi dire, era Carlo? Buono. Dimmi. No, volevo dire che lui, questo personaggetto, difende gli immigrati. Perché... difende il diritto degli immigrati a mangiare il riso non scotto. Esatto, e ma non condito. Il diritto, è una protesta civile. Ma la protesta non l'ha neanche chiamata protesta. Da Ridolini. Persone che muoiono di fame, italiane che muoiono di fame. Una protesta da Ridolini, da Ridolini. Una protesta da Ridolini, che solo in Italia può accadere che ci sia una delegazione di immigrati che va, no, ma non è quello, che va dal questore a protestare perché il riso è scotto. È una protesta ridicola, tipica dell'Italia, che è un paese ridicolo. Gianmarco da Milano, dai. Sono io, grazie. Dimmi. Volevo dire che Parenzo come fa a difendere questa cosa? Ancora un altro. Ancora, no, ma scusate. Ancora un altro che non ha acceso il cervello, ma non importa. Ma lascialo parlare, ma scusa, ma non può difendere. Ancora perché un altro, va ma bene, perché avanti, non deve connettere il cervello? Ma cos'è che ho difeso? Io non hai riesco difeso a capire. Il diritto di avere il riso non scotto. No, questo momento. Fa passare questi che vogliono la pasta perfetta come se fosse un diritto. Non è un diritto. Ma prima cosa di vuol tutto, dire la pasta? Beh, ha ragione Gianmarco, scusa. Se uno legge la notizia. Di ricevere questa gente. Sono d'accordo anch'io su questa cosa qua. Il questore dove dire chi siete voi? Rappresentanti illegale. Rappresentanti di un questore che rappresenta lo Stato. fatto, non può ricevere della gente che qui in modo illegale. Allora, primo, sono dei rifugiati, cosa. Quindi non sono illegali, no, o clandestini. A parte che non è detto che siano rifugiati. Essendo rifugiati in modo illegale. L'unica cosa che questi hanno fatto è chiedere civilmente al loro interlocutore del momento, ci mancherebbe cioè altro, ma come lo dovrebbero chiedere? Come lo dovrebbero chiedere con i bastoni la in mano? La possibilità di avere la pasta cotta e non scotta. Lo c'è da fare casino scotta. Su questa roba, come si chiama i responsabili, come si chiama Gianmarco, questo i responsabili caro della, Gianmarco responsabili la della pasta mensa. Le pennette niente, lei è capace di cuocerle 7 minuti anziché 24 come c'è scritto sul pacco di pasta, sì o no? Non sì, hai capito nulla. Ci vuole tanto, dagli la pasta non scotta. Allora, il responsabile è una lesione di un diritto. Il responsabile di questo posto, che si chiama Dimora di Abramo, dice: il menù è ottimo, gli operatori mangiano nella stessa mensa e nessuno va a protestare. È abbastanza chiaro o ti devo fare le figure? Va bene, allora o ti devo fare i disegnini? Gravissimo, i disegnini. Francesco, Reggio Emilia, dai. Ciao, ciao dimmi, a tutti. Dimmi. Ciao a tutti. No, volevo intervenire su questa cosa qua della questura, perché io non dico che ho assistito, ma ho l'ufficio vicino alla questura, quindi ero a piedi lungo il controviale della questura. Sentiamo. E ho visto che c'era, giusto per capire un po', anche perché oggi sul giornale locale è descritta abbastanza bene questa cosa. Appunto, no, premesso, l'ho letta anch'io. Dunque? Ecco, premesso che c'è stata questa calca, che di solito c'è abbastanza confusione in questura per i permessi, eccetera. C'era stata questa calca, questa... 50-60 persone. Sì, ma già una follia, 50-60 persone che vanno in questura. È una follia, un attimo. È una follia, dai. David, scusami. Che così, sì, dimmi, mi interessa molto. Visto che c'ero... No, mi interessa molto, infatti. Di darvi, prego, prego. Un po' l'idea. Quindi, 60 persone arrivano, poi ognuno fa i propri commenti. Il questore, che regge una donna, tra le altre cose, tendo a dire, è una donna, si è sentita in dovere, visto che era in questura, chiaramente al suo posto di lavoro, di scendere per capire che cazzo stesse succedendo. Certo, perché non si era vista che in questura uno vada a fare una... La confusione la vai a fare in piazza, vai in questura a fare... Ottima confusione. Cronaca, ma non, per ora. Avanti, ecco. Quindi? Ma non è che questi siano andati lì col bastone... Vabbè, chiaro, ma ci mancherebbe pure. Cioè, non lo so. Ma no, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Dai, è normale che vanno là senza voler sfasciare tutto, no? Benissimo, ma io mi chiedo una cosa. Quando persone sono rifugiate, che poi erano tutti pakistani, non mi sembra che il Pakistan sia uno stato canaglia dove la gente scappa dalla Siria, eccetera. Bene, ma come si sono organizzati? Io vorrei capire questi con quale mentalità vengono in questura organizzati perché la pasta è scotta. Secondo me sono sobillati da qualcuno, però è una mia idea. Aspetta, Francesco, terminiamo il tuo racconto fra qualche istante. Marijuana e zanzara, marijuana e zanzara, viva la zanzara, ciao Crucians! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Cruciani, prima mi facevo una doccia un giorno sì e un giorno no, adesso mi sto avviando verso il quinto giorno senza lavarmi, mia moglie è disperata, è molto incazzata con te, ha detto che andrà dall'avvocato e chiederà la separazione, sei la mia disperazione Cruciani. Ma ragazzi, non è che tutto quello che dico va osservato alla lettera, io parlo per me, io parlo per me. Parlo solo ed esclusivamente per me. Intanto eravamo con Francesco da Reggio Emilia, che era presente alla manifestazione assurda di 40 profughi o presunti tali. Mi pare una persona per bene questo qui. Francesco, però ti sta dicendo una cosa. Sì, ti sta dicendo lo una dice cosa. Con pacatezza, spiega bene le cose, com'è andata. Che bravi, era, sta dicendo rimore. Che gli è sembrata tutta una follia, o no, no sì. Francesco? Allora, sì, allora, parliamo... Subito che la dimora d'Abramo, che è abbastanza conosciuta qua da una cooperativa sociale, fa volontariato da una vita, quindi non ci sono dei balordi dentro, insomma, anche se non è un mondo a me molto affine, però devo essere onesto, perché gente che lavora non è gente... Sì, ma ragazzi, loro dicono che gli operatori mangiano la stessa mensa e che il menù è ottimo. Ma sì, ma allora il problema vero è un altro. Allora, premesso che mio nonno mi ha insegnato che a cavallo donato non si guarda in bocca, chiaro, perché è chiaro, una vecchia salda... Bene, ok. Quindi... Io non posso neanche credere che gente che fino a ieri, a me non stanno simpatici gli immigrati, premetto, però non posso neanche credere che fino a ieri gente che moriva di fame oggi viene a rompere i coglioni perché la pasta è scotta. È una follia, ma in termini, cioè, non ha senso. È ovvio che ci deve essere una macchinazione di qualcuno, di qualcosa, sicuramente del governo, che non è in grado, dal mio punto di vista, di tenere a bada queste cose, partendo dalla scuola, perché la cultura di un paese la si fa dalla scuola. Perché quando a scuola, quando i ragazzini giocano a pallone, bravo, i bravo. Genitori si mettono le mani addosso perché uno fa un fallo piuttosto che un altro, il paese è morto. Il paese è morto. No, ma il punto è un altro. Il punto è un altro. È che probabilmente, invece civile, se uno. Ma il civile ti sta dicendo che hai detto un sacco sì, di cazzate no, fino ma adesso. Ma non chiama per dire l'ho dato da mangiare. No, ma è scandalizzato pure lui. È scandalizzato pure lui. Per bene, civile, che pone un problema in modo civile. Non è Alessio da Padova, ma non è Minchione da Rovigo. Ognuno ha il suo modo di esprimersi. Ma no, ma no, lo dice. È una persona civile. Ci si capisce, non è che dice gli immigrati non devono mangiare. Ma chi ha detto che non devono mangiare? È una persona per bene. No, il punto è molto semplice, è che secondo me Francesco, certo, secondo me dopo un mese che uno è in un posto, e non fa un cazzo, perché così ci hanno raccontato, non la Zanzara, il Corriere della Sera l'altro giorno ha descritto cosa avviene in un centro a Vibo Valentia e hanno descritto in maniera molto chiara che questi qua dicono no, tanto io nemmeno in letto si fanno, vanno integrati, vanno aiutati, va mandato il mediatore culturale per spiegargli come ma si fa, culturale, ma non rompere i coglioni. Vanno, capito? Allora, va spiegata le cose. Ma quale mediatore culturale? Scusate. Basta con queste minchiate. Dai, no, su. Vanno fatti lavorare. Allora, vanno fatti lavorare. Non c'è dubbio. Vanno fatti stancare, perché quando uno lavora arriva a casa la sera, a quest'ora che è stanco e non ha voglia di andare a rompere i coglioni a nessuno, manca a sua moglie che gli rompe le palle, poi dopo ovviamente la moglie la accoltella. Sì, questi gigioleggiano dalla mattina alla sera. Non fa un cazzo, arriva a casa la sera al marito, è stanco, la moglie gli fa girare i coglioni, questo qua gli hanno massacrato le palle tutto il giorno e ogni tanto qualcuno si piglia anche delle mazzate. Aspetta un attimo, fermo. Pronto? Sì, buonasera, qui Procura della Repubblica. Sì, buonasera. Sì, avevamo un provvedimento da dare al signor Polegato. Chi ti parla? Sì, è alla Procura della Repubblica di Udine. Mi dica il nome, per favore. Sì, il dottor Montaguzzi. Montaguzzi, sono Polegato, mi dica tutto. Sì, abbiamo da mandarle una denuncia nei suoi confronti, vogliamo l'indirizzo esatto. Ma io per telefono non lo so, la Procura della Repubblica, ma se mi chiede alla Vigo... È la Procura della Repubblica, vogliamo l'indirizzo esatto. Ma io per telefono non do indirizzo a nessuno, esatto, scusi, È la procura, è la procura, è la procura. Io sono un impiegato. Sì, ma se dalla Vigo, di che denuncia si tratta, mi scusi? Come, scusi? Di che denuncia si tratta? Vilipendio alla Presidenza della Repubblica. No, vilipendio. Vilipendio. Vilipendio al capo dello Stato, così leggo davanti a me. Passo il funzionario. Sì, sì. Un attimo, che le passo il funzionario, un attimo. Aspetta. Sì, dottor De Curtis, allora tutto a posto, no? Sono parlato col dirigente, quindi. Sì, scusi, sono Polegato, mi dica. Sì, ho parlato col dirigente poco fa perché dobbiamo notificare questo atto per vilipendio al capo dello Stato, parole gravissime, leggo nel dispositivo, che sono state pronunciate dal signor Polegato. Quindi dobbiamo notificare l'atto. Va bene, non potete chiedere l'indirizzo alla Digo su Pordenone? Sì, no, più che altro lo chiamo da Roma, quindi siccome mi ha passato la tenente di Udine il capo, quindi mi ha girato questa chiamata per notificarlo. Di Roma? Adesso chiamo da Roma, se le ripasso l'ufficio di Udine perché mi ha chiamato, adesso noi siamo in chiusura qui. Questo Polegato. Polegato? Sì. Pronto? L'indirizzo vogliamo qui da Udine, l'indirizzo? Ma... Ah, cazzone! Porca miseria, ma talmente, che ti abbiamo eliminato! E che cazzo, no, dai! Fatto, sì, fatto nessun vilipendio. Ma che hai fatto? Ma come non c'è stato? Te la sei presa con noi devi pure. Devi pagare ora, devi pagare. Addio, no, addio alla politica. No, invece deve restare in lista. Polegato. Deve restare in lista, Polegato. Addio alla politica, no, deve Polegato. Restare in lista. Sospiro di sollievo. Dimmi che Udine. Non ti ritiri, ti prego. No, dimmi che non dove è che Pordenone. Dimmi che non ti ritiri. Sospiro di sollievo a Pordenone. Aspetta. Finalmente eliminato Polegato. Aspetta, fammi sentire. Io penso di sono stato un po' come si chiama sicuramente sì, maestro, non ti metta non te metta a fare io stavo lavorando alle 19:30. Sì, ma non ti mettere a fare vengo insultato. Ma insultato da chi? Ma da chi? Da ma che insulta? Ma che insulta? Mi ha subito appena mi ha presentato mi ha dato dell'ubriacone. Ma non fare, Polegato, adesso non fare la cosa, non fare il cane bastonato, non fare il cane bastonato, su, no, dai. No, ma uno che si proclama fascista, ma come? Ma uno che si proclama fascista viene inzittito dal povero Parenzo, non guardi, credo, no, un guardi, fascista, Parenzo, no, come lei. Parenzo? No, non è Parenzo. Sì, è Parenzo. Ma io dico, è un fascista come lei, uno che si dichiara fascista. Si spaventa Parenzo. Per un Parenzo, non credo. Parenzo, ma che fascista è lei? Io sto lavorando, non sto lì alla radio come voi che chiamate la gente. Io ho un ristorante. E beh, che cazzo sto lavorando? E quando uno lavora e sente anche di essere insultato in questa maniera. Ma qua, insultato da chi? Ma che dici? Voi vi avete provocato e io ho provocato. Ma è lei voi. Che ma ha dai, insultato? Collegato, è lei dai. Che ha insultato il capo, il presidente della Repubblica, il povero Vendola. No, se ha ascoltato bene la registrazione, ho detto il Mattarella era archiviato in un archivio. Ha detto sarà un mafioso come gli altri. Mafioso, detto, no, ha detto delle cose gravissime. Mafioso. Addio, Polegato. No, ma io lascia, deve Polegato. Lei avrà detto cose gravissime. Io non penso. Resta in lista, Polegato, resta in lista. Sono in lista e non mollo. Grazie. Aspetta, fermo un attimo. Senti, se hai il coraggio adesso, siccome dici di essere fascista, mi canti una canzone del ventennio. Devi cantarmi. Allora, dimmi una canzone del ventennio, ti prego. Ok, adesso te la canto. Dai. Vai. Se tu dall'alto piano guardi il mare, moretta che sei schiava fra gli schiavi. Non ha capito. Vedrai come in un sogno tante navi. E un tricolore sventola per te, faccetta nera della vicina. Aspetta, che già l'ora si avvicina. E Polegato, addio a te. Zitto. E Polegato, addio. Vai, continua. Ti prego, continua, che è bellissimo. Vai. Dai, sempre che rompere palle, Parenzo. No, stai zitto, Parenzo. Vai, continua, vai. È sentito, Parenzo. Vai, continua. Vai. La nostra legge schiavitù d'amore. Il nostro motto è libertà e dovere, vendicheremo noi camicie nere, gli eroi caduti liberando te, facetta nera della vicina. Aspetta, che già l'ora sta vicina. Bravo ragazzi! Ciao Polegato, vai Polegato, con candidato! Sei un coglione, ma devi essere candidato! Devi rimanere candidato! Sei un coglione, ma candidato! Grandissimo! Beh, ascolta, ci sono due coglioni, uno sono io, l'altro sei tu. Ciao ragazzo! Ciao. A me la zanzara non mi piace, mi eccita. La zanzara. Mamma mia, Cruciani, voi matti! Non pago di quello che ha detto, si mette a cantare le canzoni del ventennio, Parenzo. Mamma mia, ma che deve fare? Io non lo so. Io lo sai che voglio farle cantare una canzone del ventennio al giorno, credo, a Polegato. Ma uno, ma che deve fare di più però uno, a un certo punto? Io non lo riesco a capire, cosa deve fare? Allora, Donato da Varese oh. che se non sbaglio è stato denunciato da Chicco Testa per alcune affermazioni fatte alla Zanzara. Beh, finalmente. Credo che sei tu, no, Donato? Sì, sono io. Ciao, ciao Donato, dimmi. Meno male. Ciao. Bene, fatto. Meno male cosa. Uno di meno, forza, uno di meno. Un uomo come Chicco Testa si permette di denunciarmi per una denuncia di infamia per delle parole dette. Io peraltro dico a Chicco Testa, qualora fosse all'ascolto. Sì, sicuramente la seconda. Questa non è una forma di ritrattare o di codardia. No. È su di me che io quando ho parlato di Chicco Testa ho parlato di quell'apparato criminoso, di sanguisughe, no? Che in base esagera ancora. Loro non gli basta mica sta gente. Hanno incassato miliardi di lire. Non voglio infierire su Chicco Testa. Chicco Testa fa parte di un No, non ho nessuna cosa. Ha fatto benissimo di a denunciarlo. Ma come no? Lui mi ha fatto cosa? Ma l'hai massacrato, Donato. Dai, adesso non è che puoi ritrattare. Adesso sta provando a correggere il tiro. Ma ormai ha detto. Questo pezzo di me. A me, quante persone hanno chiamato pezzo di me? Se noi mandassimo, denunciassimo tutti quelli che dicono pezzo di merda. Ma ha detto, ha fatto delle accuse gravissime. Ci vorrebbe un milione di tribunali. Ha fatto accuse gravissime. Ma vai a fare in quel culo. Tu sei un po' addio. Ma io sapessi chiamato pezzo di merda Salvini. Capito? Se avessi chiamato pezzi di merda a Matteo Salvini, tu non avresti, a Salvini, non avresti detto un cazzo. Ma non perché è vero. Perché io sono questo, Salvini, è vero, questo è vero. Ma questo non è vero. Ma che dice? Dico al tuo amico Chicco Testa che volesse andare a leccare gli spinteri. Ma che dice? Tu ti incazzi. Questo qua non gli basta la lezione. Cioè già nessuno. È stato. Comunque, a questa gente qua non gli basta la lezione. Ma che basta la lezione? Questi li denunci. Dovranno pagare perché dovranno pagare. Non gli basta la lezione. Aspetta, nessuno. Guarda, è l'unico nessuno che riesce a fare male a tutti per quella, con quella sua testa velenosa. Vabbè, dimmi Donato, perché hai chiamato? Non ho capito. Io da questo momento, da questo momento voglio trovare tutti i telefonati alla tua radio. Sì. Dobbiamo fermare quello sporco imbroglio. Chiamasi Mare Nostrum. Ma non c'è più Mare Nostrum adesso. Non esiste però. Più. Mare, no, ma io lo chiamo Mare Nostrum perché non esiste più. Mare Nostrum. È stato abolito da Renzi. Come cazzo lo vogliono? Quella mafia sotto il cielo. Ah, tu dici l'accoglienza. L'accoglienza. Corvette, anfibie, truppe di fanteria. Ma non si capisce un cazzo per portare quell'isla. Bisogna, guarda Giuseppe, dimmi ascoltami, dimmi bisogna fermare Mare Nostrum. Ma è già fermo, tutti è già quei soldi non vediamolo per gli italiani. È informato o no? Questi africani, questi africani non devono più entrare. Ma noi allora, ma anche un bambino, no? Un bambino elementare che sa anche un bambino alle prime elementari che conosce così marginalmente l'aritmetica, sì. Sa che noi di questo passo fra 30 anni saremo islamizzati. Io non voglio essere islamizzato. Io non voglio camminare sulla strada e vedere l'Islam. L'Islam lo rispetto, ma a casa loro. Questa è una terra cristiana. Io parlando ai milioni e milioni di cristiani. Se fanno ancora in tempo, liberiamoci. Dobbiamo mandare via un Che bisogna fare? Che bisogna fare concretamente? Bisogna svegliarsi. Svegliarsi. Poi io sono sveglio. Poi bisogna mandare subito. Renzi dovrebbe essere ucciso. Vabbè, questo è amico mio, però dopo uno dice, ma uno, io voglio sapere questo. Uno, però, perché cos'è che uno deve essere? Scusa, voglio nel canale di Sicilia, lui che lo mantiene aperto, e lui che lo mantiene. Renzi deve essere ucciso. Poi lo dice fermandosi col tono di voce, anche no? Renzi deve essere ucciso. Una bomba letterale. Parla fortissimo. Non c'è fine. Ma una bomba dove? Non c'è fine. Ci sono 800 milioni di africani miserabili, cornuti, che bisogna andare a tagliare. Ma non impara la lezione. Agli africani bisogna andare a tagliare il cazzo, quelli fanno sempre figli. Non impara la lezione. Ci verranno matto, a uccidere dai. In casa, ve lo sto dicendo. Ci verranno a uccidere in casa. Sì, adesso non è che non succedono, perché gli stiamo dando anche le nostre mogli, gli stiamo dando il culo, gli stiamo dando l'albergo, mettiamo a disposizione merda come parente, ma no? Fa un pro islamico, ma questa gente qui per cosa deve pagare, voglio sapere io. Cioè, se uno fa questo discorso, ma la bomba dove bisogna mettere? Non ho capito la bomba. Cosa? Fatemi capire. Una bomba su Mare Nostrum, ne uccideremo che stiamo parlando di 3.000, ma basta, non ci saranno più morti. Questi sono tutti giovani forzuti ai tanti pieni di salute. Ma tu dici, con i barconi, che bisogna fare con i barconi? Affondarli, sparare. Una bomba! Bisogna adesso uccidere! Allora, non si può sparare i barconi. C'è qualcosa per cui lo deve pagare per quel che dice. C'è più di questo. Questo signore, no, fermi. Questo signore ha detto che Renzi deve essere ucciso. Questo signore qua. Non ha detto questo. Quei migliaia di africani che sono uccisi per colpa di Renzi. Perché ogni persona che li annega, il colpevole, il primo colpevole è Renzi che tiene in moto quella macchina infernale. Allora fate una bella coerenza. Andateli a prendere dove cazzo si trovano e portateli qua. Allora mostrano di essere un po' più coerente, no? In che senso? Non ho capito. No, allora annegano in mare. Che ne abbiamo salvato 100.000, loro li chiamano migranti. Clandestini, non migranti! Abbiamo salvato Ma scusa, sulla mensa qua, con matematica certezza, una volta messo sui balconi sarebbe tutti quanti annegati. Ma sulla mensa non mi dici allora, niente. Allora si può dire bene salvati 100.000. Ma sulla mensa non mi dici niente, sulla mensa? Cosa? Sulla mensa che protesta. Io non gli darei un cazzo. Io li prenderei, li metterei su un treno vecchio. E li porterei al loro paese. Ma che treno non ci arriva? Tu credimi, tutti! Ma non ci arrivano i treni. 4 miliardi li darei alle donne italiane per fare figli! Figli! Non con l'Africa in casa! L'Africa deve stare in quel continente! Rimanere in quelle terre immense! Quelle terre meravigliose! Cosa triste! In mala gente che non totale, hanno saputo fare un cazzo! Totale inutilità del farmaco! Commettere stupri, incesti! Incesti, eh! Cioè, la totale inutilità dei farmaci porta poi allora, questa cosa tutto, qua. Allora, mi spiace. Bisogna vuol dire proprio che non c'è. Ma tu sei ancora convinto che hai dietro 12 milioni di italiani? Certo, ovvio. Certo. Perché non gli si vuole dare voce a queste persone. Ma cioè, tu veramente voce, pensi di poter essere un leader politico? Io guardo la politica, i meccanismi della politica, la corsia, quelle cose le conosco proprio perché sarà il leader della corsia dell'ospedale. Però se ti dico le cose come devono andare per dare un po' di serenità agli italiani, serenità, io ti dico con quella voce poi dimmi. Cosa? Fermo, non si capisce. Che senti, è da dove chiama? È disturbato. Poi, da dove chiama? Ma che è disturbato? Che verrà da un bugigattolo, da un ospedale, da un ospedale psichiatrico, dai. Perché è a fianco. Hanno sequestrato il telefono. Buttalo fuori da quello studio. Io te lo dico, guarda. Sì, ma non è a Roma. Lo so che ti può fare. È a Roma. A Roma. Prendere un altro qualsiasi. L'ultimo che c'è a Roma, mettilo al microfono. Questo non fa altro che fare proselite del male. Proselite del male. Io agli africani non gli do un cazzo perché sono dei falliti in una terra meravigliosa. Si sono mangiati tra di loro. No, quando il farmaci non funziona più proprio. Ciao Donato, hai... ciao. Però mi dicono che c'è un IBAN di fan di Donato Tavarese per l'eventuale causa, per la causa di Chicco Testa, attenzione. L'IBAN. Non va aiutato, deve prendersi la responsabilità di quello che ha detto. Lucio da Pavia, vai, Lucio da Pavia. Brutta persona. Vai. Anzi no, Andrea da Firenze, poi Lucio da Pavia oppure uno dei due, dai, chi il primo che capita, vai. Andrea. Sì, dimmi. Sì, sono io? Sì, vai. Ciao. Allora, volevo chiedere una cosa a Parenzo. Lui lo sa quanto costa la mensa a Firenze per mandare due bambini alla scuola elementare? La mensa dipende, io so quanto costa la mia mensa, quella dei miei figli. I tuoi andranno probabilmente al Four Seasons. Vanno all'asilo nido comunale. Stai sereno perché stia sereno lei, vanno all'asilo nido. Quello comunale mi pare difficile. Vanno all'asilo nido quello. Non ci credo, non ci se l'avevano belle pigiate, se no. Vanno all'asilo nido e vanno. Perché appena sanno che sono figli tuoi, le pigliano a calcio. Quindi vanno all'asilo nido normale. Sicuro non vanno all'asilo comunale. Ho fatto una domanda: quanto costa la mensa a Firenze per mandare due figlioli a scuola Le scuole elementari o delle medie? Non lo so io. Elementari. Io spendo più di 400 euro al mese al comune di Firenze per fargli mangiare la merda. Denunzi la scuola, non denunci la scuola, capito? Perché tra l'altro in una scuola, cioè lui sta volta, dicendo adesso dobbiamo una volta c'era lui sta di... no, aspetta un attimo Andrea, tu stai dicendo che paghi 400 euro al mese per i figli, non ti lamenti e invece quegli fa altri rompono i coglioni. Fermo là, fermi. Abu Dhabi, esco dall'ufficio, macchina cabrio e ascolto la zanzara. Due cose. Uno, grande iniziativa libertaria. Paghiamo con una colletta le spese processuali di Donato Tavarese contro Chicco Testa. Due, ma chi cazzo è Chicco Testa? Alicante, 3 di notte. Beccato degli italiani, hanno detto Cruciani è figo. E tu io, sì, lo ascolto, ma preferisco Donato Tavarese. Anche in Spagna, Donato Libero. Allora, eravamo con Andrea da Firenze che giustamente dice pago 400 euro al mese per la mensa per i miei figli, il cibo fa cagare. Deve denunciare la sua scuola, giustamente. E però no, non vado. Non devi denunciare niente, perché io non denuncio la scuola. No, allora faccia continuare a me. E allora, beh, giusto, fa benissimo. I miei vanno in una scuola dove è un suo diritto. Dove una volta c'era la mensa e cucinavano interni e mangiavano bene, l'hanno fatta chiudere perché. Vabbè, adesso c'era... lasciamo perdere questo. Ha ragione, è un suo diritto, ma perché non c'entrano niente gli immigrati. Ma ha ragione, no, se ma si mangiano no, male. Non c'entrano niente. Non c'entra nulla. Io ho girato, sono stato in India, sono stato in Africa e mangi la merda dalla mattina alla sera. Cioè, questi qui, qualsiasi ma cosa si vede che si vede che gli amici che l'hanno ospitata le hanno dato quel che meritava. No, perché io no, non è quello che meritavo, razza di deficiente. Perché io ho fatto viaggi facendoli il fai da te e mi sono calato dove andavo. Quindi, bravo, si vede che si è calato nel giusto, diciamo. Capito? Si è calato nel giusto. E te che fai tutto il fenomenino, no? Invita a venire a casa tua, te le porti a casa tua, gli ecco fai la cena, gli ecco fai, l'argomento idiota. Andrea dice una cosa. Andrea dice, attento, cioè, Andrea, il ragionamento di questo Andrea è questo. Fame, sì, vabbè, ovvio, ma questo è evidente, fame, no? Ma questo è ovvio, allora gli puoi dare anche le cose scadute. Calma, scusa, Andrea. Centinaia di chilometri di strade in Italia con l'erba alta, gli dai una falce e gliele fai votare tutti. Ma questo va bene, può essere giusto. Questo è giusto. Ragazzi, Andrea, ma con questo se ce lo facessero fare saresti il primo che questo dice è no, giusto. Perché si stancano, perché le sfruttiamo. Ma lo che si stancano. Razzista, allora, razzista. Andrea dice. Va, fanculo, va. Andrea, amen, mi saluti a casa. Andrea dice. Andrea dice. Ma non è che può essere solo tu a mandare a fare in culo la gente. No, qualcuno ti manda. No, per carità, certo. No, Andrea dice. Ci devo fare una postilla sui Marò sì. Con te. Amico. Allora, il punto è molto sto semplice. Sto fenomeno, no, aspetta cosa che ti dice? Dico. Sto fenomeno, cosa dici? Beh, a questo punto gli si può dare da mangiare anche la muffa, volendo. Ma non ha detto che è la muffa. Quelli protestano no, perché il cibo è scotto. Non dire cazzate, allora, non è la muffa, dai. Lui su. Si arrabbia perché a scuola dei suoi figli gli danno da mangiare delle cose cattive. E secondo lui. Secondo lui. Io devo prendere per vero. In tutte le scuole mangiano le cose cattive. Perché se cuoci la pasta la mattina alle 10. Ma non è vero, negli asili hanno l'obbligo di cucinarla subito, allora, ma comunque non importa, allora, lascia stare. Sì. Allora, diciamo, Andrea si lamenta di questo, ha ragione a lamentarsi e io mi fido della sua lamentela, dovrebbe segnalare questa cosa a chi di competenza, primo discorso. Tu dici la stessa cosa, hanno diritto di farlo pure gli immigrati. La stessa cosa fanno quelli. No, io no, non capisco, le due strade non si incontrano, non è una cosa in contrapposizione dell'altra. I figli di Andrea da Firenze hanno diritto di mangiare delle cose buone e fresche soprattutto e non scadute e buone. Però, ragazzi, quindi fa bene, diciamo, tu stai eludendo il problema. Tu stai eludendo il problema. A parte che Andrea paga, a parte che Andrea paga invece per quelle gratis. A parte che Andrea paga. Ma se Andrea, Dio non voglia, va all'ospedale, anch'io pago per Andrea, capito? Andrea, lo potrei capire. Io per quelli che si curano, per quelli che non hanno i soldi e per quelli italiani che non hanno i soldi e si curano con le strutture pubbliche, anch'io pago, anche Andrea paga. Però, scusa, ragazzi, ma non è che mi lamento di questo. Allora, la cosa è molto io semplice, nessuno al mondo, nessuno al mondo, per persone nessuno che non al mondo fanno, tranne Parenzo, può sostenere che la protesta di un gruppo di immigrati, di una delegazione di immigrati, cosa inaudita, inaudito che ci sia una delegazione di immigrati, non le proteste, protesta, anzi, aspetta, nessuno come scandalo, no? Te l'ha raccontata quello da Reggio Emilia. Ma sì, ma allora, ha ragione. Non è ammissibile che ci sia una delegazione di immigrati che va Reggio Emilia da quest'ora a protestare perché la pasta è scotta e il cibo è poco vario. È una follia talmente enorme che solamente Parenzo può dire che è giusto che il riso non sia scotto, è giusto che i cibi siano vari, eccetera, eccetera, ed è normale offrire a questi un'opportunità di questo tipo. Scotto, mi pare. Ma no, ma di che stiamo parlando, ragazzi? È scotto come può essere scotto allora, il cibo di una. Ma allora dategli da mangiare delle cose scadute. Dai, Lucio da Pavia, dai, Lucio, Lucio. Un abbraccio agli amici del Riccardo da Roma Fan Club. No, io ho una poesia per Parenzo. E fa così: strunz. Casi cagati menzura e fumighi ancora. Trunz. Poi mi chiedo, come cazzo sì, si ma fa? Ma spiegamela a... però, perché la gente magari non l'ha capito. Stronzo, sei stato cacato da mezz'ora e ancora fai fumo. Ma perché ha scritto una biografia su se stesso questo Lucio? Sì, perché lei ha scritto un'autobiografia? Ma è bella questa. Ma dove si trova l'autobiografia di Lucio? La tua demenza. No, no, scusi, no, perché voglio comprarla. Dove si trova l'autobiografia di Lucio da Pavia? Dove da si trova l'autobiografia? Da sto cazzo. Dai, Lucio, su, dai. L'autobiografia di Lucio da Pavia. Come tu possa difendere questa tratta legalizzata degli schiavi? Fa anche ridere. Che viene portata qui. Dove una volta la si faceva lavorare, adesso la si tiene in capannoni e si pigliano i contributi uguali a quelli che si pigliava, che pigliavano allevatore di vacche o di pecore. È vero, quelli così. Non li pigliano è una più. Tratta degli schiavi che alimenta, alimenta il. Ma d'altra parte, ragazzi, oggi ho letto una notizia che non riguarda gli immigrati, ma riguarda i Rom a Roma. Una notizia incredibile, se volete, no? Cioè, sai che c'è un progetto del Comune di Roma che in 13 anni ha speso, credo, intorno ai 27 milioni di euro. 27 milioni di euro in 13 anni, dal 2002 fino al 2015, una cosa di questo tipo, per scolarizzare, cioè per portare a scuola i bambini rom. Tu sai la percentuale di bambini rom? Una vergogna, bassissima. Cioè 9 su 10 non sono andati a scuola. Fallito il progetto, qualcuno si è intascato questi soldi, dovrà restituirli. Milioni di euro. Ma vedi, la solidarietà non è una roba. Ragazzi, cioè i progetti funziona così, vanno anche valutati. La questione degli immigrati, capito? Ma tutto non è un vero, i progetti vanno business. Valutati. Cioè, ma vogliamo che vadano a scuola i figli dei bambini rom? Ma questa è una cosa sì. Scontata. Ma che no, vuol dire? Perché manca la sanzione. A scuola cioè, ci devono andare soldi... comunque, dai, su, senza progetto di 27 milioni di euro. Dai, Vincenzo, Napoli. Andare, ma gli devi spiegare, gli devi obbligare, devi fare un lavoro, Vincenzo, prenderli, portarli, Vincenzo, lavarli. Sì, intanto io pago. Vincenzo, Napoli, vai. No, io paghi, pago. Vengono sprecati io pago, i soldi. Questo e è io problema. Pago. Vincenzo, vai. Dunque, no, volevo dire, non mi risulta che nella cultura di questi immigrati, nella loro cultura culinaria, ci sia la pasta come alimentazione. Come fanno a capire questo che scotta? Questo che pure è vero. E anche questo è una valutazione questa vera. È vero. Questo, cosa c'è dietro, questo non è sbagliata come cosa. E poi io lavoro in ospedale da 30 anni, hanno sempre mangiato pasta scotta a Napoli, che era un po' la culla della pasta, e nessuno si è lamentato mai. Ma sì, ma ragazzi, ma nelle mense normalmente, a parte rari casi, si mangia la pasta scotta, si mangia la pasta leggermente scotta, in alcuni casi scotta totalmente, in alcuni casi leggermente scotta perché trattasi di grandi quantità. Stiamo parlando di un non caso, no, cioè, è un delle caso, persone che è sono caso, lamentate per il cibo. È un caso, va bene. È un caso. Voi dite, non è legittimo che uno che viene qua ed è ospite si lamenta per il cibo. Questa assolutamente è la tesi, no. Lascia stare, perché, il punto ma vero non è questo che se ti danno, qua, se ti danno gli scarafaggi sì, se ti danno gli scarafaggi sì, se ti danno gli scarafaggi perché già è ospite, no, non è solo questo. Se ti danno... Allora a me non interessa non il dettaglio, fare. La pasta scotta, ma come no? Quello il montone, è quello la cosa non importante. Mi il riso che ma quello è il punto. Chicco, due chicchi, ma questo è il punto. Chicchi, ma il perché... pomodoro, no? Quello ma perché non vuoi capire carne. Che questo è il punto? Non è questo ma il sì, punto. Ma il dibattito ti... sta verso se ti danno gli scarafaggi, hai ragione tu. No, vabbè. Il principio che governa questa discussione e alcuni che chiamano contro di me e invendo contro non sbattere contro il microfono. È un altro il principio che diciamo è sottostante a questa discussione. Dimmi. Ed è questo, che l'immigrato non deve alzare la ma testa. Chi te l'ha detto? Già non che deve... è qua, ti assicuro. Ma già alcuni che la pensano così, altri no. Deve stare zitto. Fermi perché tutti, qualunque fermi cosa tutti. Tu dica è così. Io però su Roma, sulla vicenda di Roma, perché voglio cambiare repentinamente argomento, voglio chiamare una signora, la signora Almirante, sul casino di Roma del centrodestra, cioè Berlusconi, Bertolaso, fatto fuori, adesso Marchini, forse Storace si ritira, un casino come al solito, un casino che forse... alla fine favorisce, è vero, favorisce Giachetti, o forse no, perché in realtà il voto più frastagliato con Bertolaso avrebbe comunque favorito Giachetti, cioè se Berlusconi stava su Bertolaso, comunque Giachetti era favorito. In questo caso non è che la situazione cambia molto per il signor Giachetti, giusto? Cioè, comunque giusto. Sentiamo il parere di Donna Assunta Almirante. Ragazzi, avete il numero di telefono pronto? Dalla regia, è pronto? Chiamiamo, dai. Donna Assunta? Sì. Come va? Sono Cruciani. Eccoci. Bene, bene. Beh, non c'è male, ce la caviamo sempre come al solito. Ha visto che succede a Roma, donna Assunta? Che sta succedendo a Roma? Come no? Berlusconi ha mollato Bertolaso e ha abbracciato Marchini. A Berlusconi sarebbe ora, a mio avviso, di ritirarsi. Oh, perché a mio avviso non ha combinato nulla, solo casini. Sì. Questo è arrivato come un fulmine, ha pensato di farci vedere il cielo che veniva in terra e purtroppo questo cielo non l'abbiamo visto. Di conseguenza, con l'andare degli anni, ci siamo resi conto che praticamente è uno come gli altri. Cioè vende fumo. Parolare e basta, parolare e basta. Vende fumo, insomma, vende ecco, fumo. Vorrei vedere se uno si ricorderà domani di lui. Non è stato capace, ha avuto il potere in mano, non è stato capace nemmeno di fare una sedia. Creiamo gli uomini, il brutto degli italiani, sì. E che creiamo gli uomini e poi ci rendiamo conto che non servono a nulla. Beh, questo pure aveva per Mussolini. Aveva ragione Gianfranco Fini, questo, allora. Questo pure per Mussolini, allora poteva essere... No, Mussolini ha creato, le opere ci sono, non le contiamo opere. Le palle. Ma insomma, adesso signora. Lei va verso l'euro e trova l'euro che l'ha fatta qualcuno, che ha avuto l'idea di farla fare a qualcuno. Cioè, dice, almeno ha fatto qualcosa e Berlusconi non ha fatto una mazza. Berlusconi manca una sedia, parole basse. Beh, insomma, no, Mediaset ha fatto. Ha fatto le aziende. Ma quelle sono le sue, che c'entra? Quello è stato l'industriale che ha avuto la capacità di fare determinati lavori. Ma adesso non sta facendo, adesso è invecchiato ed è più pericoloso, più dannoso. Certo, ma la vecchiaia porta a questo, A che cosa? All'invecchiamento mentale. Cioè al rincoglionimento in pratica. Ecco, in parole povere. Tranne non lei. Lo volevo dire, l'ha anticipato lei. Tranne lei che però mi sembra lucidissima, scusi donna Assunta. Cioè, ma io non sono invecchiata. Lei, lei dice, io ho più anni di Berlusconi ma sono più lucida di lui. Ecco, sono più lucida di lui. Vabbè, io riesco a mantenere ancora la mia famiglia, ad essere il capo famiglia. Vabbè, scusi donna Assunta, allora la situazione è questa. Praticamente nel centrodestra, chiamiamolo così, anche se queste divisioni ormai non ci sono più, a Roma ci sono. Storace che forse si ritira, sì. La Meloni candidata insieme a Salvini, Forza Italia che prima era con Bertolaso adesso è con Marchini, ma che possiamo dire? Un bordello? Lo chiamiamo così perché lei da maschio è più preparato di me in materia. Però io come... non sono in materia, non sono molto preparato. Come lo vogliamo chiamare allora? No, l'ha chiamata giusto lei, no? Non lo so, bordello, Marchini contro, praticamente Marchini contro la Meloni, questo è il punto. Non lo so, finiranno con l'abbracciarsi poi. Comunque Berlusconi ha fatto il solito casino, prima Bertolaso. Ma sì, aveva le capacità, aveva la possibilità di fare tanto. E invece ma niente. Ma quando si riducono a parlare molto, combinano poco. Certo. Io farò, io dirò, tu farai. Ma ha fatto qualcosa di positivo al governo, sto Berlusconi, no? Cosa ha fatto? Che ne so? Lo chiediamo a lei. Lo sto chiedendo a lei. Che ne so? Io non l'ho visto. Quello che c'era c'è. Casino c'è. Vabbè. Donna Assunta, arrivederci, grazie. Arrivederci. Buona serata, mi raccomando. Sempre in forma. Donna Assunta Almirante Berlusconi non ha fatto un cazzo. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. Giuro che se mi dovessero dare 20.000 euro di multa perché mi trovano con una prostituta è la volta che scendo in strada a sparare. È con noi Cristiano De André. Buonasera. Benvenuto buonasera a questo show. Benvenuto a questo show dei matti. È un po' matto, sei anche tu, diciamo la verità. Cristiano. Sì, dalla tua vita è caratterizzata da elementi di follia, però a noi piace la follia. Piace. Erasmo della Rosa, andiamo in poi, direi che ha dato un senso a questa condizione. Beh, assolutamente. È meglio essere un po' folli che normali. È meglio qualche giorno da folle che 100 giorni da che cosa? Da normali, diciamo. Normali, ho detto sì. Sì, da certo. Allora, devo dirti subito. Ho un po' paura di essere normali. Dimmi, Parenzo, che mi devi dire? Che per me è uno dei capolavori di André, con cui ho dato di Fabrizio, stai dicendo? Sì. Di Cristiano De André. Di Cristiano? No, uno di... dei capolavori, sì, di Cristiano De André, sì. Si chiama, che tu non conosci perché sei un somaro. Si chiama Lady Barcollando, sì. Che è una canzone meravigliosa con cui ho fatto una quantità di pomiciate che non hai neanche idea. Lady Barcollando. Allora, sì, ma devi farla sentire. Ma la conosci solo tu? La conosci? No, Cristiano, no. Come fa sta canzone? Mi io non la conosco. Ti dico... Com'è che fa? Non voglio che me la canti. Lady Barcollando, sì, che... nella nebbia del mattino, appuntato con suo dito ogni uomo, ogni destino. Capito, ma così la cantavi? La canticchiavi? No, non avevo la chitarra. No, adesso sto dicendo a Parenzo, ma tu veramente la sapevi a memoria? Ma è meravigliosa. È una poesia. Ho scoperto che Parenzo. Cos'è? Senti la intro. Shh, stai zitto. Ah, sei tu? Senti la intro. Senti che roba. Ho detto che siamo matti, eh. Senti che roba. Senti la ricerca musicale. Shh. Oh, finalmente meno stronzate, un po' di robe serie. Vai, vai, senti qua. Poi? Barcolando nebbia del mattino. Senti che roba. Ah, la sai veramente? Ogni uomo, ogni destino. La carità, suoi diritti. Senti che roba adesso. Scusa, hai visto per caso passare la vita? Cristiano non è preparato, sta portando via. No, no, ma no, ti, hai capito chi è? Grazie. Hai capito chi è Lady Barcolando? Beh, no, Puciani. Non ho ancora capito. Spiegami, facciamolo. Vabbè, spiegare alla... Lady Barcolando è un po' la figura berlusconiana della situazione. Cioè, tu, perché tu sei stato sempre molto anti, sei stato sempre molto anti-berlusconiano, o no? Sì, abbastanza. Sì. Beh, cioè, pensi che Berlusconi rappresenti un po' il male assoluto, no? Ma io penso che Berlusconi ha rappresentato più che altro da una parte un grande industriale, che non ammettere la verità, sì. Però dall'altra anche un disastro sociale e politico. Disastro sociale e politico. Ma socialmente, perché ha dato un messaggio negativo ai ragazzi, ai giovani, che la felicità si può comprare. La felicità si può, comprare, non si è mai potuta comprare. Quindi, secondo me lo sapevano pure prima, a prescindere da Berlusconi. Lo sapevamo prima, ma molti invece si sono creduti. Quindi questo secondo me è Ma oggi tu che per chi voti, per esempio? Ma io sono... Sei grillino. Con 5 Stelle. Sì, sei con 5 Stelle. Sì. Dove voti? Questo, Voto in Sardegna, perché ho ancora la residenza. Ancora residenza lì, dunque non manco voterai. Comunque ti piace. Sono genovese, ma. Sì, lo so, avendo la casa poi in Sardegna. Cioè, tu sei convinto che con 5 Stelle al governo cambia tutto? Ma. Sarà schifato. Non so, credo che comunque abbiano un'alternativa migliore di quello che si stanno presentando. E Renzi? Renzi non lo sopporti? Ma. Come Berlusconi? No, beh, comunque su quella strada lì. Stessa roba, dai. Evitiamo di parlare di politica, che adesso non è. Vabbè, ma che ci frega? Lo so che fai altre cose, adesso ne parliamo, hai scritto un libro. Se devo risponderti, sì, quel panorama non è sicuramente allegro. No, beh, il panorama non è allegro, è una cosa da demita. Cioè, Cristiano De André deve dire Renzi, secondo me, che ne so. Cioè, Renzi, se non è uguale a Berlusconi, poco ci manca. Ci va vicino, vabbè. Fa cose, cioè dici fa cose di destra, fa cose che farebbe Berlusconi. Ma adesso non te voglio mettere le cose in bocca, è giusto per capire un po' come la pensi su Renzi, che è il capo del governo. Ne frega niente. No, però non sono. Non sei renziano, sai, capito? E d'altra parte dici che voti 5 Stelle. Allora, esce un'autobiografia per Mondadori che si chiama La versione di C. Fra poco inizi, credo, una nuova nuovo tour. Che diavolo è? Un nuovo che fai? De André canta. Fino a dicembre. Sì. Un tour con i miei dischi, con le mie canzoni, sì, eccetera. Adesso dopo 5 anni. Sì. Dall'ultimo ripresento un De André canta De André, quindi 15-18 opere di mio padre rivisitate da me con il mio vestito, con i nuovi arrangiamenti, come due dischi live precedenti. Di De André canta De André, faccio un terzo disco live. Però ti voglio segnalare che la tua autobiografia esce per Mondadori, cioè Berlusconi sarà pure un diavolo, ma esce per Mondadori. Ti voglio segnalare solo questo. Esce per Mondadori, ma che in Audi sei diventata Mondadori? Beh, ho capito, però esce per Mondadori. Dici che Berlusconi è stato un esempio negativo per i giovani e poi ha pubblicato con Berlusconi. Non tutti i milanisti hanno votato Forza Italia. No, ma questo pure è vero, però. Guarda quanto gode Cristiano De André, che pubblica un libro, non so se è contro, ma contro Berlusconi, con Berlusconi. Meraviglioso questo. Sì, ma quello d'accordo, quella è la vecchia cosa, però ti ricordi? Cioè, che ma è giusto far così, no? Bisogna entrare dentro. Cioè, bisogna fottere il potere, fottere il nemico, dice. Bisogna entrarci dentro, sì. Cioè, col tuo libro lo arricchisci indirettamente, anzi non direttamente. Dico quello che penso, non sono contro nessuno, non è un libro che attacca. Di politica, no? Perché parli... è un libro di pace, in realtà faccio pace con il mio passato, ho dei momenti difficili della mia vita, ci sono un sacco di aneddoti divertenti. Sicuramente, guarda, io ho iniziato a leggerlo, ti voglio subito chiedere una cosa, perché io sono molto diretto, il rapporto tuo con la droga è finito oppure ancora qualche cosa fai? diretto, te lo devo chiedere, dai. Direi che è finito. Cioè, te fai qualche canna ogni tanto? Ma insomma, ogni tanto può anche succedere, ma non mi interessa. Non ti interessa? Ma veramente tu ti sei fatto anche di eroina? Sì, è successo dai 15 ai 19 anni. Cioè, ma proprio con sniffando, proprio l'eroina, quella con le pere, insomma. No, beh, insomma, sì. Le pere. La seconda, sì. La seconda. E la cocaina per quanto tempo? Beh, quella saltuariamente. Saltuariamente. Anche adesso, no? No. Vabbè, ma non c'è niente di strano. Ogni tanto io per esempio non ho mai fatto un cazzo, però non è che se uno si fa una striscia è un delitto. Tu, eh? tu non ti sei mai fatto niente. Io non mi sono mai, ti giuro, Parenzo lo sa. Io mi sono tanti altri ecco, vedi, non vuol dire che però chi non si fa nulla è sano. No, assolutamente. Cruciani è l'esempio di uno che non si è fatto nulla, ma ha delle idee malsane, quindi capisci che insomma non c'è una relazione. No, guarda, lo sai che cosa ho io, perché mi sono salvato? In realtà sono stato sempre circondato da persone che si facevano qualsiasi cosa, tranne l'eroina, perché forse sono di un... Tu quanti anni hai, Cristiano, scusami? Beh, ne ho 53. Beh, no, ma io poco. Quando avevo 20 anni stavo di moda, purtroppo. Sì, no, io ne ho quasi 50, ma in realtà poi sono forse ambienti diversi, eccetera. Ma comunque io mi sono salvato perché ho sempre fatto finta di fare l'atleta e dunque dovevo tenermi un po' lontano da varie sostanze, eccetera, eccetera. No, io quello non ci sono mai riuscito a fare finta. E l'alcol, né a fare l'atleta né a fare finta. E l'alcol tantissimo, anche adesso. Ah, insomma, normalmente è una cosa. Ecco, però ma insomma, non è che. No, ma se queste, io credo che questo sia un libro talmente aperto a qualsiasi tipo di costi, perché uno può prendere qualsiasi pagina e parlarne. No, ma certo, non c'è dubbio. O scriverla, però ci sono delle cose, ecco, c'è la mia vita, quindi ci sono altre cose più importanti. Ecco, per esempio, io voglio chiedere una cosa, che sono sempre stato curioso di una cosa. Chi fa uso di sostanze a lungo, e anche alcol, eccetera? Scusami, però se deve essere un'intervista... No, adesso poi parliamo d'altro, La possiamo anche mollare lì, perché non ho più voglia. No, ma Cristiano, adesso parlo di un'altra... C'è un libro, c'è un tour, e mi stai parlando... Quello, no? Ma il libro parlerà anche di... il libro parlerà... Oppure magari comincia a farti che magari... No, io non mi comincio a fare... Non mi comincio a fare... Così ti rispondi da solo. No, io non mi comincio a fare perché non mi faccio, no, non mi voglio fare. Ma che c'entra? Allora non vedo perché stai continuando su questo argomento. No, voglio chiedere... Questo argomento, se volendo, l'avevo già chiuso. Ti stavo semplicemente chiedendo... Chiudilo allora, grazie, perché il mio libro parla anche molto tempo, c'è la mia però scusa, fa bene alla radio parlare solo no di... ma non mi fa bene alla radio, io vado per istinto, perché devi poi c'è questa moda di chiedere, prendo il tuo istinto, tieni la freno. Ma che vuol dire tieni la freno? Cioè ognuno fa freno il tuo istinto, tieni la freno. Vabbè, adesso tu mi devi dire come deve essere tenuto a freno il mio istinto. Cioè, no, sì, te lo devo dire io, perché visto che parli di me. Ma d'accordo, ma non mi sembra di averti. Non, magari hai raccontato anche nel libro alcune. Stai parlando di una cosa da 10 minuti della stessa cosa. Il mio libro. Parte che non abbiamo parlato anche di una canzone. Abbiamo parlato anche di una canzone con Parenzo, per cui non è vero che abbiamo parlato solo di questo. Infatti, ti ho detto, insomma, se parliamo che era altro, visto che non so se. Ti stavo parlando del tuo rapporto, cioè, tra droga e sesso, cioè le droghe, che rapporto hanno con il sesso, che cosa provocano nel sesso? Questo non lo so, prova a chiederlo a qualche altro, per me non parlo di questo. Non parli di questo, parlo di questo. D'accordo, vuoi parlare di tua figlia? Vuoi parlare tu di mia figlia? No, posso farti una domanda su tua figlia? Nel libro, se vuoi leggere l'ho scritta nel libro. No, senti, no, ma... Sai cosa ti dico? Sì. Perché non te ne vai a cagare? Sei la tua cazzo di domanda. Beh, mandami a cagare, dai. Mandami a cagare. Ti ho mandato a cagare. E perché? E perché mi mandi perché a cagare? Perché sei uno stronzo. Perché sono uno stronzo? Perché sei uno... Fai un libro sulla autobiografia. Gossiparo del cazzo. Gossiparo io, guarda, io sono lontano dal gossip. Io sono lontano, sono lontano dal gossip. Sono lontano dal gossip. Leggi il libro. Sì, lo sto leggendo, lo sto leggendo. Io interrompo questa. Ma perché? Perché? Parliamo di tuo padre, allora. Parliamo di tuo padre. Stupida. Stupido lo dici. Lo stupido lo dice a qualcun altro. Stupido. La mia autobiografia, leggila e poi. Sì, io la sto leggendo. È un ignorante. Sì, io sono ignorante, tu sei un cafone. Garbi direbbe che sei una capra, chi? Un gossiparo da due soldi. Sì, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Vabbè, un poveraccio, dai, su, un poveraccio. No, poveretto, si è arrabbiato, ma perché? Ma chi se ne frega? Uno non può fare domande sulla sua vita. Uno esce un'autobiografia e fare domande sulla sua vita, di che cosa parliamo, scusa? Fare domande sulla sua vita, le domande che tutti fanno, le cose che tutti dicono e le cose di cui tutti parlano, le poche persone che ne parlano. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. due omosessuali uomini che fanno sesso, non vi dovete seccare, fa impressione, no? Veramente, mamma mia. Cruciani, che uomo di merda sei, ti pisci anche addosso in aeroporto, ma come si fa? Ma come si fa? Ragazzi, io non è che ho detto questo, non ho detto questo, ho detto... Ho detto semplicemente che alcune volte succede, e succede a tutti, tranne che a Parenzo, ma evidentemente è successo anche a Parenzo. Ma no, lo vuole dire. Ma che è uno... successo al liceo. Ma no, ma preso dalla fretta, eccetera, eccetera, ma alla fine c'è la macchiolina che spunta. Ma è normale. Schifo, ma sui pantaloni sarà successo, l'elementare. Ma quando mai? Ma non è tutto normale, ste porcherie. Ma che porcherie? Ma perché porcherie? Le cose normali della vita devono essere giudicate ma porcherie. Ma non è una cosa normale non saper sgocciolare. Dai, alle elementari si può sbagliare. Il peggio di Radio Padania. No, non si può fare. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guardavano ascoltatori, vai. Servi di Roma fuori. Per me la vittoria di Trump è una bella iniezione di fiducia, anche per noi altri che vorremmo non che al nostro paese al venga un ricettacolo al malavitoso e scafisti. Speriamo che da più di fa tamel prendero e abita un bel muro a difendere i confini della Padania. Ascolti per radio. Cioè questo parlava in lombardo, ti ascolti per radio, ti ascolto per radio. Ma cosa incredibile. La Padania, ancora gente che la Padania. Abbandonata anche da Salvini, quell'ascoltatore pensa che esista ancora la Padania. Ti ascolti per radio, da. Vai vedere quanto è bello. Per cui questi non sono profughi, Sammy, sono invasori clandestini. Che cazzo vogliono? Sono d'Africa, non è in Europa. Schengen cosa c'entra con l'Africa? Questi clandestini non devono rompere i coglioni, punto. Servi di Roma fuori. Ancora. Senza dubbi neri. Cinque palle. Ascolta un po', hai detto di sciacquarci la bocca a noi? Ma tu ti devi sciacquare la faccia perché sarai pieno di quella roba che si fa al mattino. Ma signor Cinque Stelle, ma non avete vergogna? Sciacquatevela voi la bocca. Ripensamenti. Volevo farvi notare la differenza tra l'Austria e noi. Loro hanno le palle, noi abbiamo i coglioni. Noi abbiamo i coglioni più dell'Austria, va bene? Nel noi senso che ci governano, E il razzismo che c'è ad Osterrassen. Va bene, abbiamo capito. Caccia oltre il fiume. Come mai il signor Fazio non chiama un po' di questi manutengoli del PD, questi sguatteri, a relazionare come mai il grande partito democratico è in realtà colluso con la camorra? A me piacerebbe molto vedere una sorta di autocritica di questi straccioni. Servi di Roma. Conclusione con Marin. Non esageriamo, però io difendo i 5 Stelle, perché quello di Alessandria che è stato trovato negli spogliatoi, secondo me era soltanto un po' mutandaro, sai, di quelli che vanno a sentire gli odori della mutanda, robe che piacciono a Parenzo and Company, capito? Cioè, loro su queste cose si eccitano. Padania bella e libera. Ci dispiace per quei due della Zanzara. Naturalmente l'appello è sempre aperto. Se dovessero cacciarvi da Radio 24, le porte di Radio Padania sono sempre aperte, nel senso che venite voi ad aprirle e a chiuderle. Come apri porta non è male, eh? Cioè Marin pensa che saremo prima noi a uscire da una radio e dopo lui. Piuttosto caro Marin, mangio pane e cipolla tutta la vita. Caro Marin, ti posso semplicemente dire una cosa. Tu sei lì in quel posto solo grazie ai miei quattrini. Anche ai miei quattrini, capito? Quando? Prima o poi. E prima o poi succederà. Prima o poi succederà. Questi quattrini non ci saranno più. Quando finirà il finanziamento pubblico. Il finanziamento pubblico. Allora verrai a leccarmi i piedi. Verrai a leccarmi i piedi, a dire posso fare il matto nel tuo programma, posso, io ti accoglierò volentieri, perché siccome sei matto, sei uno straordinario freak. Beh, straordinario. Allora, sì, straordinario, a modo suo uno straordinario. Freak però, uno straordinario freak, che significa un po', no? Bizzarro, matto. Bizzarro. Allora io ti dirò, sì, puoi partecipare come comparsa a questo enorme show caro Varin. Servi di Roma fuori. Calogero, Trieste, vai. Sì, ecco, ciao. Dimmi. Ciao, parente. Ciao, Calogero, ciao. Però non è un nome propriamente triestino, mi pare. No, io sono siciliano, poi sì. Andato a Trieste. Molto e bene. È dato una curiosità che prima di commentare quella bella esemplare di italiano di Donato. Voi con questo programma avete mai preso un premio? Sì, parecchi. Yeah. Diversi, anche troppi. Sì. Bene, perché insomma era una curiosità mia, perché secondo me. Adesso che cazzo c'entra? No, c'entra perché siccome il programma dà spazio. Vabbè, dai, però non abbiamo bisogno di queste cose qua. Dimmi, ecco, che cosa vuoi sostenere. Beh, aggiornaci sul tuo luminoso pensiero e vai. Sul mio luminoso, più che altro sul pensiero di Donato, e secondo me potremmo fare una cosa eccezionale con il pensiero di Donato, con quanti sono similari a lui, che i migranti che io conosco sono veramente persone eccezionali, lavoratori, simpatici, eccetera. Quindi potremmo fare uno scambio: noi gli diamo 3 Donati o similari e ce ne teniamo 5 di loro. E questo potrebbe essere. Cioè, tu dici diamo via Donato da Varese e ci teniamo 5. Donato o quanti come lui. Cioè, tu proponi uno scambio. Uno scambio. Cioè, diamo 5 extracomunitari, ci teniamo e diamo indietro in Africa Donato da Varese. Beh, può essere una soluzione ottima. Va bene, Calogero, grazie. Ciao. Antonio da Bari. Lucido, vai. Lucido questo Calogero. Buonasera, dottor Cruciani. Sì, piano, dimmi. Passami il comunistotto. Passami, sta qua, dai. Sì. Chi è il comunista? Comunistotto, buonasera. Ma chi è il comunista? Scusa. Io volevo sapere. Ma con chi vuoi parlare? Cazzo di cervello. Sì. Tu che cazzo hai? Vabbè, ma Antonio, forza, dai. A chi si rivolge? Con chi vuol parlare? È la cosa dei migranti. Sì, dimmi, che Antonio. Difendi questi scarafaggi. Ma con chi parla? Rifiutano la pasta. Parla, affrontami. Antonio, ma affrontami cosa? Ma uno deve, per affrontare una persona, quella persona là deve esprimere un minimo di idee, un minimo di ragionamento. Tu stai dicendo. È sempre, se mi fai parlare. Ma sei tu che non sai parlare, però. Il tuo amico che ha fatto? Stava difendendo la protesta di questi migranti che rifiutano la pasta. Vabbè, allora? Quindi vuole parlare con me questo? Io gli picchierei nel culo. Le è conferita la possibilità. Tu che cosa fai? Glieli ficco nel culo i fusilli, la cosa che non vogliono. Vabbè, tu sei padrone di ficcare nel culo i fusilli, quello che vuoi, ma adesso cosa c'entra, scusa? Tu non sei... Non capire come fa Parenzo a difendere questa gente. Come fa? Difende la protesta. Allora, intanto cominciamo col capirci. Sì. Lei ha fatto istanza per... Antonio da Bari ha fatto istanza per parlare con me, è corretto? È accettata? Sì, al momento è corretto. È accettata, è corretto o no? Sì, è corretto. Hai detto, amore, non ho capito. Antonio da Bari ha fatto momentaneamente istanza per parlare con me alla Radio 24, è corretto? Esatto, sì o no? Sì, esatto. È corretto. È stata allora, accettata questa... No, dobbiamo valutare attentamente se ci sono gli estremi perché io possa dialogare con tal Antonio da Bari. Allora, visti i presupposti, l'istanza viene respinta illico atque immediato, come dicono i latini, e quindi è rimandato alla prossima puntata. Latini, migranti. No. Antonio, mi dispiace, ma non è stata accettata la sua. È stata respinta. È stata respinta. A cagare, ciao. Mi dispiace. Non è stata respinta. Mica colpa mia. Hanno respinta, non è colpa mia. Andrea da Varese, dai. Si può mica parlare con tutti. Allora in poi ci sarà questo. La richiesta da oggi c'è questo. Sì, mica con tutti, c'è l'ufficio competente. Sì, la cancelleria tipo quella di Otello. Va tutto mandato su all'ufficio di Napoletano dove chiede: vorremmo parlare con Parenzo. E valuteremo caso per caso. La cancelleria di Parenzo. Sì, Andrea, la cancelleria Varese, uguale. Andrea. Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi. Parenzo. Salve, dimmi. Buonasera. Già questo volevo portarmi bene. La mia esperienza. Io ogni tanto vado con mia mamma o in alternanza a una messa dei poveri, dei frati qua a Varese a fare volontariato per dar da mangiare, insomma, le famiglie che non hanno la possibilità. E sono sia italiani che adesso ultimamente anche molti. Ma è la mensa dei poveri, allora? Sì, di quelli redistribuiti. E volevo portare appunto l'esperienza che è capitato più volte che gli immigrati si lamentassero per il fatto che, per esempio, c'è spesso la pasta, c'è spesso il riso, e a volte abbiamo dovuto anche chiamare la polizia perché a volte hanno rovesciato i piatti in terra, urlavano, volevano le doppie, triple porzioni. E onestamente è abbastanza imbarazzante come cosa, perché ci sono famiglie di italiani anche con i bambini, anche persone anziane che non hanno mai detto niente, anzi grazie a Dio che c'è questa possibilità. È così, Andrea, cioè, ci stai raccontando una cosa nuova, cioè extracomunitari o rifugiati o profughi, quello che è, che sono arroganti e buttano il cibo per terra. Ma perché lo fanno? Non ho capito. Perché spesso si lamentano che, per esempio, a loro non va che di mangiare sempre pasta, pasta e pasta, gli dà fastidio che ci sia sempre la pasta. però è anche una mensa, come dire, che va avanti con le donazioni di chi può, quindi non è che si può dare filetto o pesce. Certo, la pasta è la prima cosa perché costa meno. Grazie a Dio che c'è la pasta, però si vede che a loro non va. Davide Reggio Emilia, grazie Andrea. Davide Reggio Emilia, vai. Sì, buonasera Cruciani. Senta, io mangio tutti i giorni nella mensa incriminata. Ah, bene, lei mangia nella mensa di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, di cui abbiamo parlato a lungo, che è la mensa... Esatto. La mensa come si chiama? È la mensa del dopolavoro ferroviario di Reggio Emilia. Sì, perché si parla della dimora di Abramo? Allora, perché è gestita dalla dimora di Abramo? Le spiego. Praticamente questa mensa serve i lavoratori delle ferrovie e è aperta anche a professionisti o chi lavora in zona, che vuole andare a mangiare lì. In più, da qualche mese... presto, diciamo, la cucina anche a quelli che cucinano per questi immigrati. Cioè, non ho capito, questi immigrati mangiano nella stessa mensa vostra oppure prendono solamente il cibo da lì? No, nella stessa mensa, praticamente hanno una sala dove vengono serviti. Allora, come si mangia? Perché mi sembra che questo sia il punto. Si mangia, no? In un modo eccellente. Sì, eccellente. Okay? Cioè, tu mangi ogni giorno lì a pranzo, immagino, no? Io sono un professionista, vado lì a pranzo per comodità perché il mio laboratorio è di vicino. Cioè, la pasta è scotta, si sta parlando incredibilmente di questo, io che cosa devo fare? Pasta scotta? No, qui parliamo riso scotto. Di piatti ottimi, scelte delle carni ottime. Sì. Cioè, meglio, benissimo, ottimi, okay? Si vede che è pretestuoso da parte di qualcuno che vuole fomentare. Cioè, il loro problema era relativo soprattutto all'eccessiva cottura del cibo e tu mi stai dicendo che non è vero. Io vedo i piatti che portano nella sala. Molto, è al dente, dici. Sono dei cibi ottimi, chiaro. Cioè, in parte anche alla poca varietà. Poca varietà, no, è vero? Intendiamoci, cioè, non è una mensa dei poveri. Sì. Cioè, questa è una mensa a tutti gli effetti. 5 stelle, a 5 stelle. No, 5 stelle no, però si mangia molto bene. Davide, la tua testimonianza, diciamo, che chiude questa discussione proprio alle 20:47. No, ho capito benissimo, cazzo. No, dall'inizio che sostieni che questi fanno bene a protestare. Intanto, questi ragazzi qua, in maggior parte africani, che sono tutti ben vestiti. Sì. Cioè, perché il comune di Reggio, secondo me, eccede in zelo, perché sembra con questa vanità emiliana che noi dobbiamo essere più bravi, più onesti, più buoni. Sì. Cioè, fare di noi la vetrina, diciamo, anche l'esempio per i propri. Dell'accoglienza. Sono ben vestiti, tutti i giorni hanno dei vestiti nuovi, stirati, puliti, bivaccano in stazione dalla mattina alla sera, va bene? Sì. Scatenando anche delle risse di coltelli a volte. Sì. Cioè, con un'indulgenza da parte dell'amministrazione. Male, ci vuole controllo, non è che la gente va lasciata così. Certo, ha ragione. Imbarazzante, va bene. Cioè, rapina ai viaggiatori all'ordine del giorno, aggressione nel sottopasso della ferrovia all'ordine del giorno. Cioè, però con questa indulgenza, perché noi comunque a Reggio, noi in Emilia, noi dobbiamo essere più bravi, più buoni e più onesti. Ma accoglienza non vuol dire però essere stupidi e subire furti. Cioè... No, forse no, non vabbè, mi sono Davide, spiegato, sta dicendo però, un'altra cosa. Sono vestiti. Io non voglio dare dello stupido a nessuno, tantomeno agli amministratori, che per carità, cioè, è sicuramente. Vabbè, Davide, comunque la cosa, la tua testimonianza sulla mensa mi sembra fondamentale. Ti ringrazio. Andiamo a Firenze, Andrea, dai. Sì, ciao. Dimmi. Allora, senti, no, volevo dire una mia impressione, che dietro queste contestazioni. Sì. Ci sono spesso ambienti vicini al sindacalismo. E ti non lo so, non lo possiamo sapere in questo caso. No, ma ti posso spiegare perché ho dei precedenti che sono accaduti tipo a miei parenti in Belgio, che quando arrivarono loro negli anni 50 erano calci nei denti. Negli anni 60 si ammorbidirono. E cosa succedeva? Che c'erano proprio i sindacalisti del posto che andavano da questi italiani, turchi, eccetera, a spiegargli come andare in pensione, prendere... Vabbè, allora? Bella. E secondo me dietro c'è qui, perché secondo te uno che è nato in Pakistan, che è una dittatura dove basta che tu dica OB, ti sparano in faccia. Dittatura in realtà non è così, comunque, insomma. No, però certi militari hanno un peso, non c'è dubbio, ma non è proprio un paese da cui si scappa per la guerra il Pakistan, No. Tranne i confini, insomma, varie cose, però si viene in Italia per fare soldi, perché ecco appunto, cioè, ma siccome però noi i migranti economici non ce li possiamo permettere, perché altrimenti potrebbero venire, basta uno che alza un dito che dice io voglio guadagnare di più. E per obbligo sei accolto di un migrante che arriva da uno di questi paesi semi-dittatoriali o semi-dittatoriali, che arriva la polizia, stai zitto e sei contento che non ti hanno detto niente, arrivi qui che puoi sputare in faccia un poliziotto, è naturale che ti si crea davanti il mondo. Ciao, ciao, ciao Andrea, devo chiudere, dimmi che c'è. No, lo riprova. Te guarda nei sindacati, sì, e questo l'ha confermato anche un sindacalista. Dai, che è successo nei sindacati? Che no, la maggior parte degli oggi tantissimi iscritti non sono più italiani, ma stranieri, perché l'italiano se ne fotte del sindacato perché ormai non ci crede. Vabbè, più. Ho capito. Grazie. La zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.